del parlare. L'umana loquela è proprietà sì naturale della ragionevol creatura che meglio dell'esser risibile distingue l'uomo da bruti, che perciò muti animali si dicono. Ella è un'arte, è vero, ma un'arte a ben considerarla così mirabile che più del divino sembra aver che dell'uomo. Io non dico iperbole. Loreto Mattei.